Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. A tutti voi, cari ascoltatori, il mio saluto e l'invocazione su ciascuno dello Spirito Santo in questa settimana così intensa per tutti noi. Diversamente dagli altri lunedì, questa sera desidero fare proprio nella cornice della Settimana Santa che stiamo vivendo, desidero fare un approfondimento che si discosta un pochino da quella che è la lettura continua degli Atti degli Apostoli, ma che può essere significativo per noi nella preparazione al grande triduo e soprattutto nella riflessione sulla forza dell'amore di Cristo che si manifesta soprattutto in questi giorni. Il tema della puntata di questa sera, della nostra conversazione di questa sera, è quando la misericordia vince la violenza. E il tema è suggerito dalla meditazione di figure molto vicine a noi, anche di grandi santi che sono stati trasfigurati nella loro esistenza grazie all'intervento, all'esperienza forte della misericordia di Dio, soprattutto nella sua manifestazione suprema, che è quella della croce. Ecco, prima di iniziare la nostra conversazione, chiedo a ciascuno di voi di invocare nel proprio cuore lo Spirito Santo, perché la parola che ascolteremo e che condivideremo possa toccare non solo la testa, ma anche il nostro cuore, e aiutarci a rendere davvero feconda questa ora e mezzo che trascorreremo insieme. Come sapete, normalmente le nostre conversazioni sono divise in due parti. C'è una prima parte dove io condivido con voi le riflessioni sul tema, mentre nella seconda parte siete voi che condividete i vostri interrogativi, le vostre riflessioni e esperienze in modo sintetico e che contribuiscono all'arricchimento o all'approfondimento di alcune cose che lo Spirito può suggerire a entrambi. Quindi a Maria e allo Spirito Santo affidiamo proprio quest'ora e mezzo perché ci guidi nell'ascolto della parola di Dio. Ecco, a Cinisello, nella chiesa di fronte alla mia comunità, sono esposte alla venerazione dei fedeli le spoglie di un beato. Il suo nome è quello di Carino da Balsamo, il beato Carino da Balsamo. Balsamo è il paese di provenienza. Un santo, un beato, che ha una storia molto originale, come pochi. La sua vicenda ha poche coordinate di riferimento, però sono sufficienti per ricostruire gli elementi essenziali del suo percorso esistenziale. Sappiamo il tempo in cui è vissuto, siamo nel XII secolo, XII-XIII secolo, tempo di eresie e di inquisizione, abbiamo alcuni luoghi in cui è vissuto, Balsamo, Forlì, Seveso, abbiamo un episodio di violenza perpetrato da quest'uomo che era un assassino che veniva prezzolato di volta in volta per uccidere delle persone scomode e lui uccise con uno strumento di campagna, uccise niente meno che uno dei più grandi predicatori domenicani del tempo, soprattutto nella zona della Lombardia e del centro Italia, San Pietro da Verona. In seguito a questa uccisione venne catturato, imprigionato, evase dalla prigione, si mise in fuga, colpito da una malattia, iniziò il suo percorso di conversione, fino a diventare a sua volta un grande santo, la prova di come la misericordia riesce a vincere ogni violenza, il tema anche che contempleremo nei giorni del giovedì, venerdì e sabato santo. La tradizione vuole che prima di ispirare Pietro da Verona, che noi veneriamo come santo, cioè quello che Carino da Balsamo ha ammazzato, ha ucciso, intingendo il dito nel proprio sangue, abbia scritto sulla terra dove stava per morire, per ispirare, la parola credo, che non era solo un atto di fede, ma era una sorta di profezia nei confronti dell'assassino di Carino che lo stava uccidendo. Infatti credo sarebbe la composizione, secondo gli interpreti della tradizione, della profezia rivolta a Carino, dove ogni lettera equivale ad una parola, la C a Carinus, la R a Religiosus, la E a Erit, la D a Domenicani, la O a Ordinis. Carinus, Religiosus, Erit, Domenicani, Ordinis. Carino sarà un religioso dell'ordine domenicano. Così San Pietro da Verona, morendo, avrebbe preannunziato la conversione del suo assassino. Ecco, ovviamente non è mia intenzione raccontarvi la storia del Beato Carino questa sera, però vorrei prendere a prestito un pochino questa storia per sottolineare come la misericordia ha la forza di vincere la violenza, ogni forma di violenza. E vorrei scandire la nostra conversazione in tre momenti che, si lasciano un pochino guidare dal titolo di un libro che mi trova molto in sintonia, scritto dal Cardinal Comastri, dal titolo Nel buio brillano le stelle, dove appunto lui racconta l'opera della misericordia in tanti uomini e donne inizialmente lontani da Dio. Ecco, la nostra conversazione sarà scandita in questi tre momenti. Nel buio brillano le stelle, le tre parti di questo titolo. Cominciamo con la prima parte, il buio, nel buio. Inizio questa parte lasciandomi introdurre da un salmo, il Salmo 40, dove l'orante, rivolgendosi a Dio, racconta la sua esperienza di buio e usa queste espressioni. Non rifiutarmi, Signore, la tua misericordia, il tuo amore e la tua fedeltà mi proteggano sempre, perché mi circondano mali senza numero, le mie colpe mi opprimono e non riesco più a vedere, sono più dei capelli del mio capo, il mio cuore viene meno. Degnati, Signore, di liberarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Siano svergognati e confusi quanti cercano di togliermi la vita, retrocedano coperti di infamia quanti godono della mia rovina, se ne tornino indietro pieni di vergogna quelli che mi dicono ti sta bene. Ecco, questo orante si rivolge a Dio raccontando e presentando nelle sue mani il buio in cui sta vivendo. Un buio che è causato dalla violenza che lo circonda, perché ha tanti nemici attorno a sé, ma anche dalla violenza che lui è portato avanti. Giustamente dice, mi circondano mali senza numero, le mie colpe mi opprimono e non riesco più a vedere. Al punto tale che la violenza perpetrata da questo orante porta tante persone a dire, ti sta bene. Se ne tornino indietro pieni di vergogna quelli che mi dicono ti sta bene, cioè non fai altro che pagare il prezzo delle tue colpe, il prezzo della tua violenza. Non è facile mettere il naso nel buio della violenza. La violenza è sempre circondata da ancelle scomode e le ritroviamo tutti attorno alla croce di Cristo. Troviamo l'ingiustizia, troviamo l'umiliazione, troviamo il sangue, le urla, i ricatti, sono tutte dimensioni che ci danno fastidio e che ci portano in genere a respingere istintivamente chi le provoca e chi le vive. In fondo tutti sentiamo dentro di noi qualche volta quel ti sta bene nei confronti di chi commette qualche male. E diciamolo, pochi di noi sono in prima fila a tendere le mani verso il violento, a tendere le mani verso chi perpetra un atto di violenza, di ingiustizia. Eppure se contempliamo la croce come la contempleremo in questi giorni, la croce è un messaggio di mani tese nei confronti di uomini violenti. Non solo verso i malfattori, che siano buoni o meno buoni, ma anche verso chi è ai piedi della croce, verso il centurione, verso i capi dei giudei, verso le donne che piangono come piangono a tutti quelli che venivano portati alla croce, verso Pilato, verso i soldati. Quel crocifisso è una mano tesa verso tutti coloro che portano dentro di sé la violenza. Ecco, in questi giorni anche nelle sale cinematografiche il film Il Risorto è un film che fa riflettere anche da questo punto di vista, che merita di essere, come dire, visto, fatto oggetto di riflessione, di meditazione, un modo come un altro per entrare nel mistero di una misericordia che vince la violenza. E anche il racconto della Bibbia è pieno di santi uomini violenti, avviluppati nel buio che la violenza genera. Pensiamo a Mosè. Mosè inizia la sua vita con una storia di violenza, quando ha ammazzato gli egiziani ed è dovuto poi fuggire. Elia, dopo la carneficina al Monte Carmelo, cade in depressione, schiacciato dalla sua stessa violenza. Giudici come Sansone, dove la violenza gli ha tirato un brutto tranello. Re come Saul, che perseguita a morte continuamente Davide. Ma anche i Maccabei, in nome della legge, compiono stragi. O a pagani come quello che noi chiamiamo il buon ladrone, il centurione, apostoli come Saulo. Persino tra i dodici troviamo due figli del fuoco, i Boanerges, lo zelota Simone. Sono tutte persone segnate dalla violenza, che prima o poi sono raggiunte dalla misericordia. Qualcuno, grazie alla misericordia, riesce ad uscirne, qualcun altro, restando chiuso alla misericordia, ne rimane vittima, tragicamente, drammaticamente. Fino ad oggi, chi legge le vicende di questi uomini, o almeno alcuni passaggi delle loro vicende, ha quasi l'impressione di uscirne sporco di sangue, tanta è la violenza che li abita. Perché mi soffermo su questo aspetto? Perché è bene non dimenticare che molti santi, prima di essere tali, hanno attraversato l'esperienza delle tenebre, come se anche per loro da mezzogiorno alle 3 del pomeriggio si è fatto buio su tutta la terra. E anche per ricordare che il Signore è venuto ad abbracciare non solo chi si mostra pentito, chi ha l'animo dolce, ma è venuto anche ad abbracciare, a portare un messaggio, a provocare chi ha nel cuore il buio causato dalla violenza. Ecco, commento questa prima parte della nostra conversazione con la storia di un santo. Una storia forse non del tutto conosciuta, il più, è la storia di un gigante della carità, che diventa un gigante della misericordia, San Camillo dell'Ellis. Ecco, forse pochi sanno che a 24 anni la vita di San Camillo era già rovinata, era considerato da tutti un uomo finito. Camillo aveva perso la madre che aveva solo 13 anni e già allora era un piccolo ribelle al punto tale che la preoccupazione più grande del padre quando morì la madre non fu quella di rimanere solo, ma quella di non essere in grado a gestire un figlio come Camillo, che divenne presto un bravaccio involgarito. Pochi anni dopo perse il padre, si arruolò subito nell'esercito del tempo, considerato da tutti uno scriteriato e violento, visse la vita da soldato di ventura, si giocava tutto nelle battaglie, nelle risse, per potersi poi giocare i soldi che aveva guadagnato. Pensate, a 23 anni viene colpito da una grave malattia, portato in uno degli ospedali di Roma, e gli ospedali non erano come sono adesso, gli ospedali di allora erano dei luoghi a volte allucinanti. Bene, in questo ospedale riceve un verdetto di espulsione, con queste precise parole, nell'ospedale romano di San Giacomo. L'hanno dovuto cacciare via perché era malato di molto terribile cervello, e continua il racconto, attaccabrighe, prepotente, negligente, sempre alla ricerca di soddisfare la passione per il gioco, si calava persino dalle finestre nottetempo per andare a cercare barcaioli e facchini con cui intrattenersi fino all'alba giocando. Questo era Camillo. Ecco, respinto da un ospedale, sarà ricoverato in un altro perché comunque aveva una malattia molto grave, aveva delle piaghe fetide alle gambe, e lì, di fronte al mistero, alla violenza con cui venivano trattati quei malati, a volte picchiati, a volte umiliati, e vedendo come invece c'era un frate che li curava con una particolare attenzione, Camillo lentamente, lentamente viene trasformato fino al punto da diventare un gigante della carità. Quindi un uomo finito a 24 anni, un uomo immerso nel buio, come il beato Carino, l'assassino di San Pietro da Verona, no? All'indomani dell'evasione dal carcere, era avvolto dal buio, ramingo, impaurito, inquieto, spoglio di tutto. Eppure nel buio incontra la misericordia di Dio. Nel buio incontra la misericordia di Dio. Ecco, lasciamo un primo stacco musicale prima di passare alla seconda parte della nostra conversazione, dove vorrei proprio soffermare sul fatto che il buio può diventare a volte esperienza della grazia di Dio. Ecco, nell'esperienza di buio che queste persone vivono, a un certo punto ecco che la misericordia di Dio si affaccia anche solo attraverso il senso di disagio, di inquietudine, di paura che il buio porta sempre con sé. E anche per questa seconda parte della nostra conversazione mi lascio guidare da un passaggio di un salmo, il Salmo 130, che noi conosciamo come De Profundis, ma è proprio il salmo che racconta come dall'esperienza del buio nasce l'invocazione della luce. Dal profondo a te grido, o Signore. Signore, ascolta la mia voce, siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia supplica. Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi ti può resistere? Ma con te è il perdono, così avremo il tuo timore. Io spero, Signore, spera l'anima mia, attendo la sua parola. L'anima mia è rivolta al Signore più che le sentinelle all'aurora. Più che le sentinelle l'aurora, Israele attenda il Signore, perché con il Signore la misericordia, e grande è colui la redenzione, egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. Ecco, notate come le parole di questo salmo, dell'orante che ha composto questa stupenda preghiera, sottolineano come nell'esperienza del buio si attende la luce. Che cosa attendono le sentinelle se non l'aurora? Perché l'aurora? Attendono l'aurora perché cambia turno, possono finalmente riposare, possono finalmente liberarsi dall'inquietudine, dalla paura, dai rischi che il buio porta con sé. Ora, colui che compone questo salmo dice: io attendo più che le sentinelle l'aurora, e l'aurora che io attendo, la luce che io attendo, è quella del Signore con la sua misericordia. Il fatto che uno viva l'esperienza del buio non significa che il sole non esista. Anzi, nel buio uno spiraglio di luce assume lo splendore e la preziosità di un diamante. E non sempre, vedete, è necessario un fenomeno straordinario per sperimentare questo raggio di sole. A Dio, nell'Esodo, è bastata una pianta di rovi pungenti e aridi per manifestare la sua identità nel fuoco a Mosè. Non ha cercato chissà che cosa. Saulo, nella sua esperienza di buio, di cecità, ha avuto sufficienza dell'abbraccio di Anania. A Elia è bastata una pietra infuocata dal sole nel deserto, con del pane sopra. Disma, il buon ladrone, ha avuto un uomo che gli ha rivolto la parola, lo ha ascoltato negli ultimi istanti della sua esistenza. Camillo Dall'Ellis, di cui abbiamo ascoltato prima il racconto, nella malattia gli è bastato incontrare qualcuno. Insomma, l'esperienza di buio si può aprire alla luce grazie a un segno che proviene da un fratello, da una sorella, che ci stanno accanto e che diventano il volto della misericordia di Dio. Quello stesso volto che sul Golgota il ladrone ha incontrato nel Cristo, il centurione ha incontrato nel Cristo, Nicodemo e Giuseppe d'Arimatea hanno incontrato in Gesù. Tre diversi rappresentanti di mondi diversi l'uno dall'altro, ma è sempre attraverso una persona che la misericordia si è fatta strada in cuori immersi nel buio. Il sole brilla anche quando c'è il buio e anche quando il buio si chiama violenza. Tuttavia, crederci non è scontato. E sapete perché non è scontato? Perché crederci significa dover ammettere e riconoscere che l'uomo, ogni uomo, può essere nuovo. E questo noi lo ammettiamo per i nostri amici, per i nostri conoscenti, per qualcuno che può sbagliare una, due, tre, anche quattro volte. Ma non lo ammettiamo per tutti. Noi, sotto sotto, non ammettiamo che un assassino, un terrorista possa essere nuovo. Noi siamo contenti se queste persone vengono, come dire, fatte fuori, eliminate dalla storia, perché c'è la paura che ci abita. Ma se noi guardiamo la croce, guardate, che porta un altro annuncio con sé. Non credere che un solo uomo sulla terra possa cambiare equivale ad ordinare a Dio di non brillare su di lui. Eppure Gesù lo diceva chiaro: siate figli del Padre vostro celeste che fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. Chi siamo noi per impedire al sole del Padre di brillare sopra gli ingiusti? Non è certo un caso che Papa Francesco in quest'anno giubilare abbia chiesto la collaborazione dei capi di Stato per sospendere le pene capitali. Chi siamo noi per ordinare al Padre di non brillare sopra gli ingiusti? Un altro esempio che ci aiuta a capire come la misericordia vinca la violenza e la trasfiguri è quello di un altro grande gigante della carità, al punto tale che la misericordia, la carità, è diventata il suo motto. E questo gigante è Charles de Foucault. Pensate, di lui Carlo Carretto scrive così: Charles de Foucault era un nobile e doveva imparare a diventare l'ultimo degli uomini. Era un uomo di azione e dovette imparare a stare fermo. Era un violento e divenne un uomo mite. Era un colonialista convinto e insegnò a tutti noi la liberazione degli schiavi e la predilezione per gli oppressi. Era ammalato di sogni di grandezza e fece suo il progetto dell'umiltà e la ricerca dell'ultimo posto. Non poteva sopportare le cimici e andò a vivere tra tribù che non avevano l'acqua per lavarsi. Aveva il nome di Gesù tatuato sul cuore, talmente lo amava, e si impose di tacere riguardo a Gesù, vivendo tra gente che preferiva sentir parlare di Maometto. E poi conclude Carlo Carretto: se Dio ha potuto cambiare profondamente il cuore di un tipo del genere, chissà che qualcosa non possa fare anche su di noi. Certo che Dio può fare tutto su di noi nel momento in cui il buio, dal buio sale l'invocazione. E allora capiamo profondamente quello che è l'ultimo grido di Gesù sulla croce. Immerso nel buio che caratterizza le ore da mezzogiorno alle 3 del pomeriggio, tutto culmina in quel grido: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Gesù fa suo il grido degli ultimi e lo trasforma in preghiera, in invocazione di luce. E Dio che disse, dirà San Paolo nella lettera ai Corinzi, rifulga la luce nelle tenebre, rifulse nei nostri cuori, per far risplendere la conoscenza della gloria divina che brilla sul volto di Cristo. E noi è questo il tesoro che portiamo in vasi di creta. Lo dice San Paolo, uno che da questa esperienza è passato. Allora, vedete, non nessuno di noi può mettere la parola fine, né su se stesso, né sugli altri. Il sole della misericordia di Dio è sempre pronto a brillare. Facciamo un attimo, un secondo stacco musicale prima di passare alla terza parte della nostra conversazione. Come vi dicevo, stiamo seguendo un pochino il percorso suggerito dal titolo del libro di Comastri, no? Nel buio brillano le stelle, dove lui racconta la forza della misericordia in uomini e donne lontane da Dio, scandendo la riflessione proprio in questi tre momenti, nel buio brillano, e la terza parte della nostra conversazione sarà dedicata alle stelle, cioè a quell'esperienza della luce che ha la forza di trasfigurare il cuore di ogni uomo. Ma lasciamo un breve stacco musicale. Nel buio brillano le stelle. Ecco, la terza parte della nostra conversazione si vuole proprio soffermare su le stelle. Cosa significa fare esperienza di una luce che trasfigura anche l'esperienza di buio che ognuno può portare dentro di sé. Ecco, attingo come sempre ad una parte del Salmo, un Salmo, una parte tratta in questo caso dal Salmo 112, dove l'orante si esprime in questi termini. Beato l'uomo che teme il Signore e nei suoi precetti trova grande gioia. Spunta nelle tenebre luce per gli uomini retti, misericordioso, pietoso, giusto. Egli non vacillerà in eterno, eterno sarà il ricordo del giusto. Cattive notizie non avrà da temere, perché saldo è il suo cuore, confida nel Signore. Sicuro è il suo cuore, non teme. Dona largamente i poveri, la sua giustizia rimane per sempre, la sua fronte si innalza nella gloria.